Oh madonna, per un pompino quanto casino. Ma in questo paese non si può più neanche scopare, figurati tu, ma è una cosa. Un paese va a puttane e noi non possiamo scopare. La zanzara. Tutto il resto è gioia. No, non ho detto gioia. Ascolto la zanzara tutte le sere e sono un masochista, però non si può sentire tutte le sere sentirsi un signore stipendiato dalla Confindustria che dice un sacco di bischierate. Dite minchiate a palate e non si ride più delle cazzate che dite. Sei una capra! Cruciani, non devi dire cazzate. Spezzoni di televisione in questi ultimi giorni, caro David, piccoli spezzoni, però mi sono bastati per eleggere quest'uomo, per nominare quest'uomo mito assoluto dei nostri tempi, forse anche dei nostri secoli. Un uomo. Francesco Sicignano, il quale dopo aver ucciso un ladro che stava per entrare a casa sua, se ne sbatte di tutti i riti della televisione, prende a male parole anche la conduttrice dicendo ma che cazzo c'hai da ridere tu, signora, non ha detto proprio così, ma insomma eravamo quasi lì. Ma lei, sono contento che alla D'Urso, no? Sono contento. Sì, no, è in cosa incredibile. Insomma, che incredibile, è il numero uno questo qua, incredibile, cioè, incredibile. Ma è il numero uno assoluto. Cioè, uno che spara, che comunque ha subito un tentato furto, se ne sta a casa sua, no? Ma come se ne sta a casa sua? Invece, che vuol dire se ne sta a casa sua? E invece va in giro. Ma è il numero uno, non se ne fotte della D'Urso. Conosceva quello là che era Sansonetti, che era ospite lì e faceva la parte del garantista, di quello che dice non bisogna usare le pistole, il Far West. Se ne fotteva di tutti questi, dei riti della televisione, dei protagonisti, se ne sbatte dei VIP, di tutti, e va all'attacco. Grazie davvero Francesco, mi senti? Sì, la sento Barbara. Allora, sono venuto qua perché qui è 4 giorni che tampinano. Non è che io ci tenevo molto ad apparire. Poi vedo che lei è molto allegra, beata lei, insomma. Io? Un'altra cosa, non so se è lei che ha mandato in onda. Sì, lei è molto allegra oggi, vedo che sono felice per lei. Francesco, allora, Francesco, scusi, le rispondo subito. Guardi, non parli sempre lei perché ha questo difetto. È veramente, ragazzi, il numero uno assoluto. Ma questo io lo voglio ovunque. Cioè, lo voglio ovunque. Presidente della Repubblica, meglio Presidente del Consiglio, a casa, Sindaco di Milano. Ma che se ne stia a casa? Questo ha detto, innanzitutto, diciamo, tra le righe, mi avete rotto i coglioni per 4 giorni. E potevano andarci. Mi avete scassato la minchia per 4 giorni. E potevano andare, mica hanno obbligato. Per carità, va, infatti, poi ognuno ha la sua, benissimo andare in televisione, ognuno ha la sua dose di esibizionismo. E per carità, voleva anche spiegare le sue ragioni dopo che dopo aver sentito mille campane. E poi a un certo punto ha detto pure parla solo lei e non vedo che cosa ha da ridere. Stupendo, ragazzi, io lo adoro questo uomo, lo adoro. Io mi ricordo negli anni 60, 70, 80, era un bel paese, lei girava a Milano fino alle 5 di mattina a correre dietro le signorine, nessuno le diceva nulla, era bellissimo. Oggi lei non può fare niente. C'era qualche straccia allora, di troppo, però. Quei signori che erano belli anni, con qualche straccia di troppo, un po' troppi attentati, però per il resto, sì, devo dire, i morti ma non mancavano. Ma che cazzo sta dicendo, scusa? Ma lei perché non parla in maniera un po' guardi più gentile? Ma lei parla sempre così. Mi ascolti. Ma che lo ascolti? Sì, sempre, perché voi, voi meritate questo. Voi meritate questo. Io sono in una mansarda, con le tende sulle finestre. vestito di nero, di scuro. Ma che cacchio vuole che gli offro il caffè? Ma vada dove deve andare. No, fra offrire ma il caffè e sparare un colpo al cuore. Fra offrire il caffè e sparare un colpo al cuore, ma c'è quale una colpo differenza. Al cuore? C'è ma lei una che differenza. Cazzo ne sa? Dopodiché, lei che cazzo ne sa? Se i giudici non dimostreranno che lei gli ha sparato fuori, lei non ha commesso alcun delitto. Ma nessuno le ha mai detto che ha preso un colpo al cuore. Se dimostreranno che ha sparato fuori, però una cosa che io dico che lei è colpevole. C'è un'indagine in corso. Non lo penso. C'è un'indagine in corso. Lei si permette di dire che l'ho preso al cuore? Cosa cazzo ne sa lei dove l'ho preso? Io lo so. Allora stia zitto. E i giudici. Sicignano, Sicignano, Presidente della Repubblica. Sì. Lei non merita rispetto. Spero che non mi spari. Perché lei non dovrebbe stare. Io spero che lei non mi spari. Spero che lei non mi spari se è questo. Io ero venuto qui per discutere calmamente cazzate. Con Salvini, che ha detto molte lei cose che io non condivido, cazzate. Ma che dice anche lei delle cose sagge. Lei si presenta qui cazzate. Insultando il conduttore, lei sta sparando dicendo che di è belle le stragi degli anni 70, lei dicendo che sono cazzate. Ma guarda lei, ma che dice? Non ci vado in casa degli altri, è questo che voi non capite, porca puttana, ma che cazzo parla piano, non mi rompete le balle, ma cosa vuoi che succeda? Ma sta succedendo? Io finché avrò vita, fiato, parlerò, voglio una legge che garantisca la proprietà privata. Le vede uno che dice doveva alzare il dito così sparare in alto. Quel signore là è un idiota, se lo deve mettere sa dove quel dito? Non lo diciamo, ma sappiamo tutto dove deve andare. Perché non si può ragionare così in una situazione del genere. Chi è che ha detto questo? Lei non sa quando uno si sveglia. Chi è che ha detto questo? A chi si riferisce? Ma guardi, una trasmissione, adesso non mi ricordo, non ne sento talmente tante di frescacce, guardi che metà bastano. Qui la Zanzara 800 24 00 24, nella giornata in cui l'Organizzazione Mondiale della Sanità ci fa sapere, caro Parenzo, che non dovremo mangiare più carne. Fra poco nelle macellerie ci saranno le scritte come sui pacchetti delle sigarette: nuoce gravemente alla salute. Tu ti rendi conto, no, a che punto siamo arrivati? Ma sì, questa roba delle carni rosse era già saltata fuori altre volte. Ma sì, ma si dice da tanti ognuno anni, ognuno si regoli come può. Sì, poi c'è il professor Veronesi che dobbiamo invitato in una trasmissione che l'ha sempre detto, oh, professor. Sì, adesso carne bianca, mangiate carne bianca, va di moda da dire che le carni rosse sono cancerogene, ma è da mo' insaccati, eccetera, eccetera. Adesso fra poco metteranno le scritte e noi continueremo a mangiare carne tranquillamente. Il consumo di sigarette tra i giovani, con le avvertenze, non è che sia diminuito, eh? Quando hanno cominciato a mettere i cartelli sulle sigarette non è diminuito manco per niente, per cui è inutile che spendete soldi per queste minchiate proibizioniste. Io credo che bisogna mangiare cose semplici, non bisogna mangiare carne, bisogna mangiare molte verdure, molta frutta. E perché la carne no? La carne aumenta il rischio di tumori intestinali. Allora, il caso Valentino Rossi, che è un caso di cui parlano tutti, nessuno escluso, dal manager all'operaio al camionista, tutti parlano del caso di Valentino Rossi, quello che è successo durante la MotoGP. Dico solo una cosa, ma a me non me ne frega niente della MotoGP, come va a finire. Sì, mi fa piacere se vince Valentino Rossi. Voglio segnalare quello, è intervenuto persino Vasco Rossi dicendo Valentino Rossi ha dovuto difendersi da un individuo che ha cercato di farlo cadere per tutta la gara solo per non permettergli di giocarsi e vincere il mondiale. Un'azione a dir poco scorretta e vergognosa che ci lascia tanto tanto amaro dentro il cuore. Vai Valentino, sempre con te. Allora, io la cosa che non sopporto l'orgoglio in questi casi nazionale, sì, capito? Devo dire la verità, certo. In questi casi non sopporto questa ondata di orgoglio nazionale, però perché nello sport ci sta, sì, ma diciamola tutta, se ci fosse stato un altro pilota al posto di Valentino Rossi dare un calcio a Valentino Rossi, lo avremmo voluto impiccato. Beh certo, è lo sport, impiccato. È così, però, Poi sì, c'è la provocazione prima, forse quel casco che tocca la gamba, eccetera. Però avremmo voluto vedere quella persona lì impiccata. Invece sicuro. Adesso diciamo, no, c'è stata la provocazione prima, forse ha messo il casco lì. Il gesto, ragazzi, è abbastanza evidente, quello volta la faccia. Io voglio un bene dell'anima dal punto di vista sportivo a Valentino Rossi, però uno poi ci deve stare. Cioè, come dice giustamente Enrico Sacchi in un'intervista oggi, ha detto a tutti, anche ai grandi campioni, può prendere il matto per 2 minuti, per 2 secondi. E gli ha preso il matto, è così. Tra l'altro voglio ricordare una cosa che giustamente il grande Riccardo Buccero mi ha ripescato dalla memoria, ed è una cosa, un frammento di Valentino Rossi contro Biaggi, contro Max Biaggi, qualche anno fa, in situazioni completamente diverse, però ci fu un incidente in cui Biaggi fu accusato da Rossi addirittura di tentativo di omicidio, cose di questo tipo, sentiamo. Lui non mi faceva passare, io ero più veloce, ho cercato di passarlo all'esterno all'uscita dell'ultima S e lui mi ha dato una gomitata apposta e mi ha buttato nella terra a più di 200 all'ora. E a Suzuka ci sono 3 metri di erba e poi c'è il muro. Io penso sempre che quello è stato quasi un tentato omicidio, ecco. Quasi un tentato omicidio. Valentino Rossi contro Biaggi, situazioni completamente diverse, però anche lì fu accusato oggi in una conferenza stampa, anzi ieri, chi era il protagonista lì? Marquez? Dice, non è che si tratta di un gioco, qui stiamo giocando, eccetera, sì, i soldi, il mondiale, eccetera, però c'è anche la vita. Sì, non voglio dire ha ragione lui, non è che voglio dire che qualcuno deve portare Valentino Rossi in tribunale, però Rossi disse una cosa di Max Biaggi, quella che abbiamo ascoltato. Il traffico è il problema. Autostrada Pedemontana, la prima e unica senza caselli. Scoprila su pedemontana.com. Vi presenta La Zanzara. Amici miei, siamo al top, siamo veramente al top. Caro Parenzo, come ogni lunedì abbiamo Matteo Salvini, buonasera, buonasera. Buonasera da Malpensa, scusate il fiatone ma c'ho il trolley. Il trolley. Sa com'è, non c'era qualche negro che poteva portarlo, no? Ma perché, devi cominciare sempre col piede sbagliato, fratello chiedo. Mio. Sempre fratello. Così, sempre così. Chiedo, magari qualche migrante sai che può portare il trolley. È il fatto che il razzismo sia spesso e volentieri di sinistra e me ne dispiaccio. Certo. Perché dici il razzismo di sinistra? Perché io sono antirazzista, perché la sinistra con la puzza sotto il naso fa la buona con i soldi degli altri, l'accogliente a spese degli altri, ma spesso e volentieri sono più spocchiosi, arroganti e razzisti del comune mortale. Antirazzista, Salvini. Perché uno non si può proclamare antirazzista, non ho capito, perché c'è la patente, tu è l'unico che ha la patente dell'antirazzismo, sei tu. No, figuriamoci. Cioè, gli unici antirazzisti sono a sinistra, secondo te. No, è come dire da Dracula non piace il sangue, ma andiamo avanti, va benissimo. Ma dai, su, forza. Sto scherzando, andiamo avanti. Senti Matteo, ma ti ho visto nella trasmissione della D'Urso con il signor Sicignano. Come combatteva, mamma mia. Bello tonico il pensionato, bello tonico. Bello tonico, ma sarebbe un candidato ideale per voi o no? E come le sparava, no, soprattutto? Non vado a offrire candidature in base alle disgrazie, perché sicuramente è stato vittima e sarà vittima di una disgrazia, però ha reagito in maniera gagliarda e mi spiace per quello che gli è successo. Ha ucciso una persona, gagliarda. Io preferisco che fosse in televisione lui a raccontare come purtroppo ha ucciso un rapinatore, piuttosto che il contrario, perché in Italia altrimenti avremmo avuto un rapinatore che ci raccontava come ha ucciso il pensionato. Però scusami Matteo, la famiglia dell'albanese morto dice che più grave uccidere, la famiglia dell'albanese morto, con tutto rispetto per un morto, taccia, che farebbe miglior figura. Dicono che è più grave uccidere piuttosto che c'è più grave quello che ha fatto Sicignano. Hanno avuto un morto, loro comunque hanno avuto un figlio, per carità, ladro, ma il morto, e hanno tutta la mia comprensione. Fosse stato in fabbrica a lavorare e non c'è dubbio, in casa di qualcun altro sarebbe vivo e vegeto, quindi che vengano a pontificare adesso. Ma pontificare, non hanno diritto alla difesa neanche, a sapere cosa è successo. Chiedo a Salvini. Ma la difesa non, in questo caso non c'è, perché la difesa che cos'è in questo caso? Quella è parte civile. Ma quella è morto, che difesa è? La difesa si intende, come tu sai, parte civile, cioè costituirsi parte civile. Basta che non vada a finire all'italiana, che poi il pensionato che si è difeso deve pure risarcire le vittime del delinquente. Io non ho capito una cosa, la famiglia dice è più grave uccidere che fare una rapina, questo è, questo è vero, questo, sicuramente sì. Questo è scontato. In questo caso è evidentemente, palesemente, chiaramente legittima difesa, quindi una preghiera per il morto, però di più no. Più di una preghiera no. Però c'è il caso, c'è anche il caso Buonanno, di cui discutere, perché Buonanno in televisione mostra una pistola. Ora, c'è poco da discutere, ha fatto una cazzata che non serve a niente a nessuno, capitolo chiuso. Ha una cazzata. Cioè, nessuna sanzione della Lega comunque. Vabbè, adesso con i problemi che c'ha l'Italia, sanzionare le genialate o le fesserie televisive non occupa le mie giornate. Gliel'ho detto più di una volta che sia l'ultima volta, perché non è così che si risolvono i problemi. Cioè, l'ultima volta che cosa? L'ultima volta a fare delle. Cioè, l'ultima volta che. Fesseria. Perché ha fatto diverse fesserie? Beh, insomma. Vabbè, secondo te tira fuori una pistola, poi non mi interessa se carica o scarica in televisione, io non ho il porto d'armi, non invito nessuno a farsi giustizia da solo, semplicemente qualcuno in condizione obbligata di farlo deve essere libero di farlo senza andare sotto processo e gogna mediatica. No, d'accordo, però scusami un attimo, per cui tu dici anche questo modo di fare politica, cioè provocazioni, eccetera... No, ma c'è provocazione, io per carità non sono un chierichetto, appunto, dico. Se penso a qualcosa la dico perché voglio farla, però non è coi gesti plateali che si risolvono i problemi. Sono curioso di sapere da Salvini, ma ha ragione Valentino Rossi secondo te o no? Non penso che sia un caso nazionale che debba muovere le diplomazie. Beh, insomma. A me piace Valentino Rossi che è un campione, però mio figlio dice che in questo caso ha torto. Ah, tuo figlio dice che ha torto? Allora ha torto sicuro, questo sì. No, tuo figlio è appassionato? Mio figlio è appassionato di MotoGP e ha detto che effettivamente ha allargato la gamba. Ha allargato la sentenza. Io mi fido del giovane Salvini. La sentenza del giovane Salvini. No, questo è un grande, però magari è uscito dai gangheri, perché quello ha fatto uscire dai gangheri, non lo so. Sì, sa chi ha detto il matto prende a tutti, diciamo, il momento dei matti prende anche ai grandi. Forse... Spero che vinca il mondiale. Detto questo, spero che nonostante tutto vinca il mondiale. La sentenza del figlio di Salvini. Vabbè, ragazzi. Guarda, ascolta pure Fedez, quindi ogni tanto devo dargli torto, ogni tanto gli do ragione, però siccome lui è esperto di moto più di me, in questo caso devo allora ascoltare. Io non ne posso più di questa cosa del che ci dicono cosa bisogna mangiare e cosa no. Adesso è arrivata pure la sentenza sulla carne da parte dell'Organizzazione Mondiale della Sanità. Io mangio un sacco di carne, con tutto rispetto per i vegani, per i vegetariani, per i venusiani. Sì. Adoro la carne fa bene, come diceva la mia nonna. Però dice l'Organizzazione Mondiale della Sanità. Però l'Organizzazione Mondiale della Sanità non è esattamente l'ultimo cretino. Dietro non venissero a rompere poi i torroni, ma ti ricordi la mucca pazza, la Fiorentina? Beh, quella era un problema, la mucca pazza. Però si è visto come che fine ha fatto la qualcuno Fiorentina. Qualcuno c'è morto di mucca pazza all'epoca. Però hanno bandito la Fiorentina per non so quanto tempo. Non beh, perché c'era pericolo per la salute, gli davano da mangiare, mangimi animali. Ragazzi, organizzazioni mi bussano. E che se fai, continuate a mangiare quello che volete. La sanità, vada a controllare ad esempio le 80.000 tonnellate di riso che entreranno dal Vietnam grazie al fatto che l'Unione Europea toglie tutti i dazi, invece di rompere le palle ai produttori italiani di carne. Per cui l'Organizzazione Mondiale della Sanità non rompe i coglioni sulla carne. Non questo me ne può fregare di meno, io carne mangiavo e carne mangio. Ciao, presto, ciao. Abbraccio. Saluti. Ciao. E devo dire la verità, caro Parenzo, anch'io me ne fotto totalmente dell'Organizzazione Mondiale della Sanità. Me ne fotto, mi faccio la bistecca ogni tanto, la carne rossa mi piace, me ne sbatto i coglioni di questi qua dell'Organizzazione Mondiale della Sanità che mi dicono che forse è cancerogena. La vietassero, se è davvero così, la vietassero. Vietassero la carne, la vendita della carne rossa. Ma scusa, quando uno dice però, che... Ho capito, no, è diversa la cosa lì. Cioè, vietassero la non vendita è che si può di carne. Tutto quel che fa male. Ma no, ma ho capito, ma se è così, cioè, non possono lanciare allarmi così. Sì, allora mettono quelle dicono state attenti che la carne rossa forse è un po' cotta peraltro anche in un determinato modo, perché l'ho letto tutto quell'articolo. Ma tu lo sai che ci sono aziende che fanno i soldi vendendo le crocchette vegane agli animali? Le crocchette vegane, cioè ci sono delle persone che fanno i quattrini e sono dei geni questi qua. Bravi, vendendo certo, le crocchette vegane agli animali. Beh, perché cioè gli animalisti, proprietari di animali, certo, vanno a comprare una certa percentuale, evidentemente abbastanza ampia, vanno a comprare le crocchette vegane. Io ha divento una sua pazzo, coerenza sta roba vegane. Però effettivamente oggettivamente giornale radio, dai, ci sentiamo tra poco, 800 24 00 24, chiamate. Francesco, allora, Francesco, scusi, le rispondo subito. Guardi, non parli sempre lei perché ha questo difetto. Gira il mondo, gira, e sempre più vorticosamente. Difficile capire tutto quello che accade, ma state tranquilli. A fine giornata vi racconto cos'è successo in Italia e all'estero, con i servizi della redazione e con gli ospiti in diretta. Effetto notte, le notizie in 60 minuti, dal lunedì al venerdì, dalle 21 alle 22, con Roberta Giordano. Digital Radio Flash. Flash. Ciao, sono Max. Ma è vero che la Digital Radio si sente perfettamente anche mentre guida in autostrada? Sì, perché è un sistema nuovo che migliora l'esperienza d'ascolto con una qualità dell'audio estremamente avanzata. E puoi ascoltare la tua radio in Digital Radio già sul 70% della rete autostradale. Lo sapevi? E allora muoviti. Muoviti a scoprire di più su digitalradio.it. Digital Radio. Il suono perfetto. Anche Radio 24 è in Digital Radio. Il segnale orario vi è offerto da... Scegli Pantera col TH. Scegli l'IRP di Infracom Italia per competere nel mondo. Stufe e caldaie Termorossi. Una promessa di calore per un amore di casa. Vi presenta La Zanzara. Prego, dico signore, ti prego, converti Cruciani affinché creda nelle tue parole, in quello che tu hai detto, l'amore. Chi va contro le leggi di Dio va all'inferno dritto dritto. Mentre il sindaco di Sanremo dice che arriveranno forse, chissà con quali tempi, al licenziamento dei dipendenti, quelli dei badge, eccetera, della eccetera, della canoa, quelli nudi, sai come si è giustificato attraverso la moglie quello che andava a fare, a timbrare il cartellino con le mutande? Che abita lì vicino. Sì, che abita lì vicino, e spesso si dimenticava a fine giornata di timbrare l'uscita. Scendeva in mutande, già andrebbe cacciato solo per quello. Scendeva in mutande e timbrava il cartellino. Qualche volta sì, l'ho fatto. E poi fare, dove andava? L'ha fatto fare anche alla moglie, forse alla figlia, eccetera, eccetera. Tornava a casa. Allora, la settimana scorsa non vi ho fatto ascoltare, se non sbaglio, la ragazza del rapinatore albanese, la fidanzata che abita in Italia del rapinatore albanese. L'abbiamo sentita venerdì. Florentina, l'abbiamo ascoltato o no? Venerdì. E dice, sì, bravo, sì, ragazzo, non aveva armi, bravo ragazzo, ma non, qui non ci sono bravi ragazzi in questa storia, non ci sono bravi, era un signore ladro che andava a rubare, un ladro con precedenti, espulso, era ritornato, non c'è un bravo ragazzo, vuol dire bravo ragazzo. No, su questo non c'è. Beh, capisco che la fidanzata debba dire bravo ragazzo, ma non c'è un bravo ragazzo, era un ladro. Questo non uno c'è che di professione alcuno. Faceva il ladro. E io sono convinto che quando uno fa il ladro e va nelle ville, va nelle case, si possa aspettare anche una fucilata. Beh, insomma, insomma. Archiviamo in 3 giorni e basta. Facciamo quel siciliano presidente della Repubblica quanto prima e via, dai. Cioè, al Quirinale quanto per prima. Per carità, ma per quali meriti? Senza... Per meriti, per avere. Per quali meriti, scusa, avrebbe. Il suo intervento ieri dalla D'Urso è stato magistrale. Cioè, quali meriti avrebbe per diventare presidente della Repubblica? Anticonformismo. Cioè, lo farei presidente della Repubblica solamente per aver detto quelle cose a Sansonetti, alla D'Urso. Tu parli troppo, mi hai rotto i coglioni per 4 giorni, eccetera. Se ho Sansonetti, manco sapeva chi era, eccetera. Ma tu non capisci un cazzo. Beh, stupendo, ragazzi. Cioè, la realtà della vita è quella che un signore si è trovato in casa uno che voleva entrare a rubare, senza sapere se quello aveva armi, pistole, voleva stuprare la moglie, ammazzare i nipoti, eccetera. Ha sparato e lo ha ammazzato. Bisognerebbe farlo presidente della Repubblica domani mattina, perché premiarlo. Perché? No, ma perché? Perché, cioè, ha, singolare perché ha difeso la propria famiglia, certo, ha difeso la propria famiglia. Contro un ladro, ma è talmente semplice il ragionamento che non riesco a capire perché poi spesso spacchiamo il capello in 5, in 10, in 20. Ah. Il tuo amico Gad Lerner dice che il problema non è Buonanno, non è Buonanno, ma chi lo invita nelle trasmissioni? Cioè, il problema non è Buonanno che fa il suo cinema, il suo cabaret, eccetera, eccetera. Ma Il problema è di chi lo invita, capito? Il problema è di chi lo invita, incredibile, guarda. Lui che ha sdoganato per primo Salvini, Borghezio, adesso ci fa la morale a noi e alle televisioni che invitano Buonanno. Le televisioni fanno benissimo a invitare Buonanno, benissimo. E non si deve scandalizzare il signor Lerner, il quale per primo ha sdoganato Borghezio, Salvini, facendoli parlare di massimi sistemi, facendoli apparire come degli statisti. Ma questo statisti no, sì, mai. Li voleva, come li faceva, statisti, li, mai. Come no, li faceva apparire come statisti, li presentava come personaggi. Li presentava come protagonisti del dibattito politico. Sì, l'incarnazione della politica del nord. Oh, l'ha cambiato idea, ci stava bene il suo pensiero. No, ma il fatto è che non tirava fuori dalle persone quello che erano quelle persone lì, magari, secondo come me. Come no? Vabbè, adesso è arrivato quello che esalta Lerner. Mario da Brescia lo faceva, dai. Lo faceva in profondo ma nord, faceva, lo faceva e come faceva. Anzi, grande trasmissione è stata Mario da Brescia, profondo andiamo, nord, andiamo. Non te lo ricordi tu Milano, beh, Mario da Brescia dovrebbe, se tu pensi che io lecchi uno Mario. Lo fa coi potenti, non con chi Mario non fa più Brescia. La televisione peraltro, no? Mario da Brescia, ma Mario. Mi pare che un attimo sia un uomo vai, di televisione Mario. Oggi lui. eccomi dimmi caro, eccomi. Dimmi per carità allora mettiamo i puntini sulle i. Per quanto riguarda il caso Sacignano, sì, Sicignano. Allora, il prossimo Sicignano. Presidente della Repubblica deve essere esatto, il nome deve esatto. essere pronunciato metto, bene. Sicignano, Sicignano, Presidente della Repubblica. Per sì. carità, ecco esatto. un altro furbo. Allora, esatto, più furbo eccone di te, un altro. Caro Parenzo. Avanti, avanti, dai. La sagra adesso stasera sarà allora, tutta usata, dai. Vediamo. Questa risulterà che gli italiani era... vogliono Sicignano, vedrai. Questa persona italiano, era a casa sua. Branco di dementi, ma insomma. E Parenzo puoi smettere. No, ti prego, prego, dai, forse vediamo l'opinione generale, come dire. Allora, uniforme l'opinione, l'opinione di chi chiama. Sì, vedrà, appunto, quindi 0,01, ma la tua conta molto meno Parenzo, ma infatti perché non ho mai assoluto. Infatti non ho mai preteso sia diverso. Adesso c'è pure esatto. lo sbeffeggiamento nei confronti di questa trasmissione. Sì, oltre no, oltre alla cosa, proprio lo sbeffeggiamento del pubblico di questa trasmissione generale. Perché, ma no, Mario, chi ascolta. Lo 0,1 dei salami che chiama. Lo 0 assoluto. Avanti, avanti. Avanti, avanti. Tacci. Sentiamo non il pensiero. In questo, in sentiamo questo vabbè, il dai, pensiero non c'è questo Mario, allora, dai, completo. Posso parlare? Vai Mario, parla però. Benissimo. Se tu continui a fare polemica allora, con Parenzo non parli. Questa persona era a casa sua, era andato a letto, non pensava assolutamente ad ammazzare qualcuno e fin qua non che veniva a trovarlo, pensava sicuramente a come è andata la giornata, certo, alla sua giusto. Famiglia. Al futuro, dall'altra parte c'era un giovanotto, un bravo sì. ragazzo no. che espulso dall'Italia era rientrato clandestinamente vero. In Italia vero. Tanto che la sua fidanzata quando non l'ha visto rientrare a casa ha avuto anche il coraggio di andare a denunciare la scomparsa dei carabinieri come vero. Se fosse una persona normale. Ma siamo all'assurdo, al ridicolo vero. In Italia, solo in Italia succede una cosa del genere. Allora, questa persona, questo pensionato, non aveva nel programma della sua serata di concludere in bellezza ammazzando un Giargia che è entrato in casa sua. No, voleva passare una serata tranquilla, una nottata tranquilla soprattutto. Esatto. E invece dormire, aveva subito furti anche prima, furti subiti da altri, da suoi parenti, eccetera, eccetera. Si è trovato dei rumori, eccetera, è esasperato, eccetera, ha sparato. Punto, in tre giorni bisognerebbe archiviare, dargli la mano e candidarlo al Quirinale. Questo è il punto. Omicidi. Sì, ma il punto è questo, bisognerebbe risolvere tutto in tre giorni, anche avesse sparato, ripeto per la centesima volta, lo ripeterò sempre, anche avesse sparato dal balcone contro uno che entrava dalla porta, eccetera, dall'alto, ecco ti ammazzo, non mi rompere i coglioni, boom, boom, boom, avrebbe fatto bene e dovrebbe essere certo. assolto in tre giorni, punto, certo. basta, senza discussioni, senza palle, senza processi. Il nuovo codice della Zanzara. Ma non è il nuovo codice, è quello che penso, è quello che penso, non attaccare al coso, al codicillo, alla cosa, ma chi se ne frega. Ci sarà, siccome vive in una società che contempla anche altre persone e altri sistemi, uno si rapporterà con quel che è il sistema, no? Ma tanto oppure, alla fine finirà così, se come ti dico dico quello io, che Mario. Desidererei io, figurati. Vai Mario. Allora, il bravo giovanotto invece aveva in programma di andare a svaligiare vero, minimo un appartamento, ha sicuramente messo in conto che potevano qualcuno magari ma nessuno lo difende, però qui se no c'è l'equivoco che anche lei nel quale purtroppo anche lei è caduto, che lei pensa che io difendi difenda il criminale cosa difendo, che non ho mai fatto. Io non difendo nessuno, io difendo allora, solo no io ho detto che non difendo il criminale proprio, tranquilli e di ma non c'è mai fatti un diritto garantito fatte... ma nemmeno indagati, lei non ha capito perché è indagato, ma non importa, non lo ripeteremo neanche qui e non sarà condannato. Grazie Andrea Ancona, no, vai perché Andrea. C'è un morto vecchio mio, c'è un morto e quindi devono capire la dinamica di come è avvenuto. Andrea fine. Ancona, vai. Ciao, dimmi. Buonasera. Sulla carne, allora mi sono fermato in un autogrill per parlare con voi, adesso mi fumo una sigaretta, mangio carne, sì. Però il discorso dell'OMS non va deriso, perché ci sono studi che hanno coinvolto 30, 40, 50 mila persone, su cui si è visto che il consumo di carne favorisce l'insorgenza del cancro. Io sono un coglione come tanti altri italiani e mi fumo la sigaretta, ma mi hanno detto che la sigaretta fa male. Ecco, quella è un'indicazione. Poi se tu te ne vuoi fregare del fatto che ti dicano che la carne fa male, fai come ma vuoi. Non è la prima volta che lo dicono, è una vita che si dice questa cosa qua. Forse ci saranno degli studi nuovi, eccetera, eccetera. Benissimo, vengono portate anche le cose affumicate per quello. Dicono spesso che può girare nelle grandi città, anche girare senza mascherina in bicicletta nelle grandi città. È chiarissimo. Allora, ma c'è dai, su adesso le salsicce. Non si può cambiare. Cruciani, in Italia, mezza Italia vive sulla carne e sul latte. Come dice Salvini, certo che non lo possono togliere le sigarette, certo che non le possono togliere. Dunque per te il mondo ideale sarebbe quello in cui in realtà non si mangia la carne. No, magari sì. Io mangio, io sono appassionato di prosciutto e di costolette d'agnello. È chiaro? E dunque? Chiaro che cerco di mangiarne poco. Quello che vorrei comunicarti è sto strafregamento, vaffanculo chi dice che non bisogna mangiare la carne. Ragazzi, è una cosa abbastanza seria, ci sono degli studi. Sì. Il latte che si consiglia per le signore con l'osteoporosi, se uno va a leggere la letteratura scientifica, favorisce l'osteoporosi. No, ma a me fa impazzire questo. Perché togli calcio alle ossa. Sì, a me fa impazzire questo. Un signore l'altro giorno, un professore vegano, l'altro giorno è intervenuto qui alla Zanzara dicendo una cosa che è l'unica forse che mi potrebbe convincere fra 100 anni a diventare vegano. E ve la faccio ascoltare dopo la borsa, perché c'è la borsa delle 19:30. Siete criminali! State ascoltando un programma offerto da... Centro Software, i migliori ERP per gestire le imprese italiane. La Zanzara. Io non ci vado in casa degli altri, è questo che voi non capite. Porca puttana, ma che cazzo, parla piano, non mi rompete le balle. Ma cosa vuoi che succeda? Cosa sta succedendo? Io finché avrò vita, fiato, parlerò, voglio una legge che garantisca la proprietà privata. Lei non merita rispetto. Spero che non mi spari. Perché lei non dovrebbe stare. Io spero che lei non mi spari. Spero che lei non mi spari se è questo. Io ero venuto qui per discutere calmamente con Salvini, che ha detto molte cose che io non condivido, ma che dice anche delle cose sagge. Lei si presenta qui insultando il conduttore, dicendo che è bella le stragi degli anni 70, dicendo che sono cazzate. Ma lei, ma che dice? Ma non è lei che deve qui a decidere cosa devono fare. Ha commesso un eccesso di legittima difesa, com'è probabile, ha commesso un reato meno grave. Ma quale eccesso? In casa mia commette un eccesso, ma vada a farsi benedire. Più grave, ma non rompa le balle alla gente che lavora. Questo lo stabiliranno i magistrati sulla base di una legge dello Stato italiano varato dal governo di centrodestra. La proprietà privata è un diritto sacrosanto. Anche la vita. Avere un'arma in casa se uno la vuole. Lei non può parlare, parlo, però vado io a mangiare. È un diritto sacrosanto. Anche la vita è un diritto. Ma guardi che non gli ho mica invitato io di venire a casa mia di notte all'1:10, Ma dove cacchio vive? Scusi. Io sono in una mansarda con le tende sulle finestre. vestito di nero, di scuro. Ma che cacchio vuole che gli offra il caffè? Ma vada dove deve andare. No, fra ma non il mi caffè e sparare un colpo al cuore. Fra offrire il caffè e sparare un colpo al cuore, ma c'è una differenza. Colpo al cuore? C'è ma lei una che differenza. Cazzo ne sa? Dopodiché, lei se che invece cazzo ne sa dove l'ho preso il colpo non dimostreranno al cuore che lei gli ha sparato fuori, lei non ha commesso alcun delitto. Ma nessuno le ha mai detto che ha preso un colpo al cuore. Che ha sparato zitto, fuori, però una cosa non è una cosa è colpevole. Io dico che lei è colpevole. C'è un'indagine in corso. Non lo penso. C'è un'indagine in corso. Lei si permette di dire che l'ho preso al cuore? Cosa cazzo ne sa lei dove l'ho preso? Io lo so. Allora stia zitto. E il giudice. Beh, a proposito di Sansonetti, che era l'avversario agitato, di Siciliano, agitato, sì, agitato, ma ognuno parla come ha voglia di parlare. Sì, per carità, certo. Parlava agitato, ma nessuno lo ha attaccato, cioè nessuno ha messo in discussione. A parte che lui ha detto, suo... Sansonetti ha detto subito che quello là era sicuramente eccesso di, molto probabilmente eccesso di legittima difesa. Dice, dunque, già la sentenza già l'ha data lui. Ma no, è giusto che la magistratura accerti come è avvenuta scontato, sta dai, roba. Quello è, l'ha detto ed è scontato. Tutti, i detrattori, chi difende, perché è già assurdo che qualcuno un politico si metta a difendere un caso, un signore come Siciliano, cioè, lo trovo totalmente assurdo, però per carità va bene così. Ma nessuno ha fatto nessuna sentenza, tutti continuano semplicemente a dire. Sansonetti ha detto molto probabilmente lei ha commesso un reato piccolo, cioè dire eccesso di legittima difesa. Quello per giustamente il quale però non verrà si è manco incazzato. Quello giustamente si è incazzato dicendo ma lei che cazzo ne sa. Ma soprattutto la cosa che voglio dire io è come tutti noi, per carità. Noi non possiamo immaginare come si vive in certe zone, questo è il punto fondamentale. Io, te, Sansonetti, molto probabilmente, viviamo al centro delle città. Ma non è vero, stai mettendo in giro una favola. Io parlo anche per me. Per 10 anni in un posto che si chiama Viale Monza. Ma lascia perdere, sempre grande città è. Parlo per me. Ma cosa vuol dire? Quel signore lì abita in campagna, in una zona dove ci sono un sacco di furti, e noi non possiamo sapere come ci si sente in quelle zone lì. Perché siamo privilegiati, non ho detto. Che c'è il diritto di fare. Ma guarda, il solito populismo quello della questione dei privilegiati. Quello non ha fatto, qualunque roba. Quello, ma no, ma quello questa. Può essere anche ricco là. Non è questo, il punto non è questo. È una stupida contrapposizione, quella dei privilegiati cosiddetti. E tu fai il falso populista che si mette nei panni. Io non faccio populismo dei perché odio il populismo, che vivono per cui in periferia. È una stupida cosa. E poi non so manco che vuol dire populismo. Facile. Ma non è la periferia, è la villetta fuori, è diverso. È ricco dalla provincia di Lucca, la dai. Villetta fuori. Vabbè, allora vivici tu là a subire i furti, poi vediamo. Enrico villetta. Dalla provincia di Lucca, vai. Sì, villetta, piccolo appartamento, no, villetta, quello che è, insomma, non è che la villa con i cannoncini fuori. Enrico, vai. Sì, buonasera. Volevo intervenire a proposito della vicenda di Valentino Rossi. Sì. E volevo brevemente dire questo, che premesso che Valentino Rossi può essere stato anche un ottimo sportivo, però come uomo è un essere spregevole. Addirittura che ha fatto? Spregevole. È spregevole. Prima di tutto perché ieri ha messo fuori con un calcio un suo... Un calcio, gli ha spostato la gamba, calcio. E poi oltretutto è stato il primo evasore in Italia. Poi, diciamo, ha fatto un accordo con l'Agenzia delle Entrate. Sì, un accordo. Ma il fatto che abbia fatto l'accordo vuol dire che è stato un evasore. Ma sì, ha fatto, diciamo, un evasore. Non solo, ma io ricordo bene anche l'episodio che lui era a Londra, non si era presentato in Italia, ha fatto una videoconferenza da Londra. Ma di che cosa stiamo parlando? Ho letto l'altro giorno sul giornale che addirittura è uscito un libro intitolato Grazie Valentino. Ma dobbiamo andare dietro a questi... No, la questione è molto semplice. Io non ho miti nella vita, non ho nemmeno il mito di Valentino Rossi. È stato un grandissimo pilota. Ha fatto delle grandi cose. No, si assiste in queste ore a una cosa un po' particolare. Cioè al fatto che... ripeto, a parti invertite, ci fosse stato un pilota spagnolo, giapponese, malese su quella moto al posto di Valentino Rossi e Valentino Rossi fosse caduto rovinosamente, noi vorremmo oggi l'impiccagione di quella persona. Questo è chiaro, cioè, è evidente, a prescindere da quello che è successo prima durante la gara, le provocazioni, eccetera, eccetera. Vero. A parte invertite, saremmo lì a dire l'autorevole squalificare. Infame, maledetto. La realtà è che alla fine di tutto Valentino Rossi è stato graziato, perché è stato graziato per quello che è successo prima, perché se le sono date di santa ragione prima, ma è stato graziato perché in un'altra situazione l'avrebbero squalificato anche per la prossima gara e probabilmente gli avrebbero tolto anche i punti tutti, anzi l'avrebbero retrocesso in questa gara qui, ma è evidente che è così. Pietro, provincia di Bari, dai, a me non me ne frega niente di Valentino Rossi, di Marquez, mi fa piacere se vince Valentino Rossi, però non ci si può, no, non ci si può mettere negli occhi la bandiera tricolore e il 46 di Valentino Rossi e non guardare la realtà. Pietro, vai. Sì, buonasera Parenzo. Dimmi. Cruciale. Niente, volevo parlare, volevo chiedere una cosa a Parenzo, se non sono... Vai. Mi dica. Praticamente lei, Parenzo, ha mai subito violenza da parte di malfattori? Gli hanno mai fatto visita in casa? È mai stato rapinato? È successo qualcosa del genere? Mai? No, in famiglia qualcuno, qualche nonno in passato sì, no, certo. Dico lei personalmente. Io direttamente per fortuna fino ad oggi no. Ecco perché no. Lei parla in questo modo. Perché vabbè, non è che non si può parlare se non si subiscono furti, eh? Anche io non ho subito violenze, meno male. Non è che uno non può parlare, dai, su Pietro. Ho capito, non perché, cioè, nel senso che insomma ce l'ha, vedo che ce l'ha molto con il signor Siciliano. Che no, non ce l'ho per famiglia. Nulla con lui, può fare quel che vuole. Dico semplicemente che ce l'ho con chi, intanto ce l'ho con chi secondo me strumentalizza il signor Siciliano, cioè i politici che ci hanno messo subito il cappello sopra. Parla di tutto, dai. Che ci hanno messo il cappello sopra. Normale, e che dai. Lo hanno fatto diventare il simbolo di una battaglia che non ha alcun senso, perché oggi esiste già in Italia la legittima difesa. Tutto qua, io non ce l'ho con lui. Lui vedrete che sarà molto probabilmente scriminato da questo, vabbè, da vedremo, questo delitto. Quello lo vedremo. Allora Pietro, vai. Giustamente, peraltro. Persona, però insomma, cioè questo è entrato, già ha scavalcato un recinto per entrare in una proprietà privata. È salito sulle scale, l'ha sparato, certo, sulle scale, che aspettava che entrava in casa e continuava a fare il resto, non lo so. Cioè, secondo me ha fatto non bene, ha fatto il suo dovere. Ha difeso dovere, ha fatto bene, punto, ha fatto bene a difendersi come voleva. Poi gli romperanno i coglioni la difesa, lì potevi sparare da una parte, mirare sopra, qualcuno dice doveva sparare in alto, ma ognuno reagisce come vuole reagire. Sparare in alto, se quello vuole sparare, spara, punto. Appunto, ma se spari in alto il rapinatore vede che sei armato, ti spara addosso direttamente. Può succedere anche quello, sì, può succedere anche quello. È inutile stare a dire. Vai Marco Milano, vai Marco Milano. Ciao Parenzo. Dimmi. Cruciani, mi dimmi, senti? Dimmi, vai. Ciao, io volevo dire tante cose. Prima di tutto volevo dire una cosa su Valentino Rossi, quello che è successo, veloce. Sì. Secondo me ha sbagliato, nel senso che doveva fermarsi, scendere e picchiarlo anche a Marquez. Pure, perché, così poi passava i guai. Squalificato per sempre. No, cioè, togliersi il casco e fa una bella scazzottata. Sì, ma dopo magari, dopo, fuori. Fuori sì. No, sì. Lì in quel momento, doveva fermare tutto. Ragazzi, scendere. Oggi ho sentito un sacco di gente, e anche il popolo di Valentino Rossi, che è sconfinato in Italia, non solo in Italia, è molto diviso. Cioè, diciamo, al di là delle poi delle... Ovviamente quelli che hanno seguito di più Valentino Rossi in tutti questi anni, cioè i cronisti, eccetera, sono molto cauti, perché è normale che sia così, come quelli che seguono la politica, che non danno giudizi, certo, o si tengono per sé alcune cose. Quelli che per una vita hanno seguito Valentino Rossi non possono dire ha sbagliato. Ci sono alcuni che lo dicono e sono molto onesti, altri sono là a dire no, ma quello ha provocato prima, ma quello c'è. La realtà è una sola. Al posto di una se ci fosse stato un altro pilota al posto di Valentino Rossi, contro Valentino Rossi, e Valentino Rossi sbattuto per terra, noi saremo lì a dire questo va squalificato per le prossime 20 gare e va impiccato in piazza. Questa è la realtà. Marco, dai, chiudi. No, volevo dire un'altra cosa, che amo questa trasmissione soprattutto per le persone che chiamano, tipo Mario il primo. E poi un'altra cosa, voglio dire, io capisco quelli che abitano in villa, perché io non abito in villa, quindi cioè, se mi dovessi trovare uno in casa, io ho un infarto, altro che sparato, quindi non infarto. Però secondo me questi che abitano in villa, anche voi che siete nella radio di Confindustria, bisogna inventare un sistema che uno non è che si deve alzare con la pistola di notte. No, ci vuole, devono uscire tipo degli allarmi con delle mitragliette silenziate, che quello non si deve neanche svegliare. Lo seccano e quello è un po' pericoloso, perché potrebbe non essere un ladro quello che tenta di entrare. Ma se quello lì, quello che ha sparato, poteva non essere un ladro, magari era il nipote con la fare uno scherzo. A luna di notte, dai, a luna, a luna di notte, Marco, dai, non scherziamo, dai, a luna, ma quello che c'entra, quello con una pistola giocattolo è andato a fare una rapina. Ciao Marco, ciao. Caro Stefano Parenzo, ti pare normale? Ti pare normale adesso che a me non pare normale niente in generale. Che in una grande città, noi abbiamo una grande città come Roma, no? Ah, certo, certo. Roma, nella quale un sindaco a un certo punto annuncia le dimissioni. Molto in qualsiasi divertente. Altra città, diciamo del globo terraqueo. Sì. Ci sarebbe già la data delle elezioni, eccetera, eccetera, eccetera. Con il sindaco che non è che comincia a parlare di cose, con i sostenitori che vengono sotto, resisti, eccetera, eccetera. Io non voglio dare la colpa a nessuno, però è una situazione che ha del paradossale. Allora, abbiamo con noi uno degli assessori ancora in carica del sindaco di Roma Marino, perché di lui stiamo parlando, Stefano Esposito, buonasera. Buonasera. È normale o no? Bene, l'Italia non è normale quasi su niente, quindi insomma, abbiamo le nostre dinamiche, le nostre abitudini, le nostre usanze. Ma se ne deve andare o no? Il Partito Democratico la linea l'ha indicata il 12 di ottobre e non è cambiata. Non è che il Partito Democratico sceglie a cuor leggero di rinunciare a Roma con il proprio sindaco senza aver fatto delle valutazioni. Ci va anche un po' di coraggio, un po' di palle. Beh, tu dici abbiamo avuto le palle, il PD ha avuto le palle perché potreste perdere, cioè perché c'è una possibilità che il PD possa perdere la città. Certo, quando vai alle elezioni il popolo sovrano decide, no? Sì. Come noi comunque non usciamo proprio da una stagione brillantissima. Abbiamo tenuto fino in fondo la, come dire, ho capito, poi sono arrivati gli scontrini che poi su, forse la cosa gli scontrini sono la goccia che ha fatto traboccare il ho capito, però gli scontrini intanto io ho trovato sbagliata una cosa, cioè quella di andare in procura e dire che la colpa è di qualcun altro, perché vedi anche cioè dei funzionari dici della segretaria, colpa anche della segretaria, sì. Lo dico tu ti scegli dei collaboratori, ne rispondi direttamente. Il buon politico non tende a non scaricare la responsabilità. Cioè, comunque sei tu responsabile. E beh, anche perché quando ti costruisci uno staff intorno, lo fai sulla base della fiducia. Cioè, vigliacco, un po' da vigliacchi prendersela con la segretaria, con i funzionari. La segretaria avrà fatto anche degli errori. Bene, la metto... La caccio. Ne discuto con lei, la caccio, se no, però... La responsabilità oggettiva è sempre di chi fa le scelte. Di chi ha in mano la baracca. Ma io non ho capito, secondo te lui è già fuori dal PD? Marino rimarrà nel Partito Democratico. Rimarrà al PD e potrà gareggiare per le primarie, secondo te, se lo vuole? Io personalmente, per come è la situazione a Roma, penso che un gruppo dirigente che si ricostruisce del Partito Democratico farebbe bene ad avere un progetto. Vabbè, quello d'accordo, ma secondo te se un uomo senza fare le primarie, posso dire. Ah, non bisogna fare le primarie? Io la penso diversamente da Renzi e Orfini su questo. Dopodiché, cioè, a Roma le primarie non vanno fatte. Io riterrei del tutto sbagliato di nuovo fare una scelta di delega. Vorrei solo segnalare che non è che le primarie sono un must immodificabile. Ti faccio sentire quello che hai detto a noi in quella famosa trasmissione all'inizio della stagione, una cosa su Marino, per carità le cose possono cambiare, però le parole rimangono, ecco, sentiamo. Secondo te Marino, diciamo realisticamente, quanto può durare? Cioè, è vero, non può durare fino alla fine della legislatura, chiamiamola così, dai. Sì. Guarda, Ignazio Marino finirà il suo mandato nel 2018. Ma no, vabbè, questo lo dici così perché non puoi dire... Guarda, ti dico che sono assolutamente convinto e ti posso dire un'altra cosa. Guarda, secondo me noi ci giochiamo anche fino in fondo la partita delle Olimpiadi. Beh, lasciamo perdere le Olimpiadi, caro Stefano. No, io le Olimpiadi confermo. Vabbè, le Olimpiadi è un altro discorso che non c'entra niente anche con Marino. Mi sa a questo punto, perché come vedi non, tutti quelli che dicono che ero partito. Beh, però 2018 eri così sicuro. Ero molto convinto. Purtroppo poi i fatti e la politica. Senti, tu non hai detto qualcosa sulla soluzione di Harry De Luca? Ti ha fatto piacere oppure no? Sì, sono stato felicissimo della sua soluzione. Dai, non fare ironico. Sono stato assolutamente felice, così abbiamo chiuso la vicenda di uno che andava in giro a fare il martire sul niente. Quindi, tu dici che a lui è convenuto essere, cioè gli conveniva essere condannato? Guarda, cavolo, guarda, posso dirti... Lui no, ma io anch'io ci ho pensato, La maggiore disperazione di Harry De Luca è quello di non essere stato condannato. E questo dico. Il disappunto di quelli che gli vanno dietro è quello che lui non sia stato condannato. Abbiamo sentito ancora un paio di volte il nome di Harry De Luca, adesso non se ne occupa più nessuno. Ovviamente, se veniva condannato, c'era la martirizzazione totale. Se lui fosse stato condannato, avremmo avuto un martire. Questo è un signore che non ha rinnegato nulla degli anni di piombo, cioè è uno che ritiene che le vittime siano non quelli a cui hanno sparato nelle gambe, va bene, ma sono quelli che sono stati arrestati e condannati per gli omicidi. Sì, sì, dice anche che lo Stato... Però un grande intellettuale italiano. Ma che c'entro, grande intellettuale italiano? Questo fuori di dubbio. Non è un grande intellettuale italiano. No, neanche, come no? Per me è semplicemente uno dei padri ignobili della peggiore stagione italiana che si è messo a scrivere libri e che per una cultura sessantottina che ancora vige in questo paese, sì, no, gli promuovono i suoi libri. Io penso che gli intellettuali sono un'altra cosa. Secondo te, quelle parole che ha utilizzato qui alla Zanzara e all'Huffington Post, per cui è andato sotto processo, erano istigazione alla violenza, sì o no? Al di là della questione giuridica, secondo te? Beh, erano un messaggio a quella parte minoritaria a cui lui si rivolge, no? Per incitarli alla lotta. Niente di diverso da quello che succedeva negli anni 70. Se io oggi facessi una dichiarazione dicendo andiamo ad assaltare l'Agenzia delle Entrate, io non avrei neanche il tempo di tornare a casa, sì, no? Che mi avrebbero già preso, no, è buttato da qualche parte. Dunque andava arrestato, secondo te, Henri De Luca? No, lui è un intellettuale o un presunto tale, uno scrittore o un presunto tale. E dunque, ho capito. La sua parola è diversa dalla mia. Dico solo che tra chi scrive libri e chi fa politica o chi fa giornalismo c'è mediamente una differenza di trattamento, punto. E mi dispiace, ma vabbè. Cioè tu dici, rispetto ad altre persone, chi fa il giornalista, chi fa l'intellettuale o il presunto tale, chi fa lo scrittore, ha una certa, nei confronti di queste persone c'è una certa indulgenza. Sì. Perché sì, loro è diritto di parola. Se io faccio una dichiarazione sopra le righe, sì, no, sono un politico e non me lo devo permettere. Allora è concesso, a noi no. Nei giorni scorsi ho letto l'unica cosa veramente interessante su Roma, in cui si scriveva che bisogna prendere atto che Roma va fatta fallire. Guarda, io non penso che il fallimento sia la soluzione, perché il fallimento in realtà lascia solo i debitori in braghe di tela. Invece io continuo a pensare, parlo di ATAC, sì, che ATAC sia riformabile. Se io fossi rimasto, te lo posso mettere per iscritto, lì si sarebbe fatto pulizia. Ma quante persone bisogna licenziare all'ATAC per farlo funzionare, secondo te? Quanti, per numero? Cominciare in ATAC? Sì. In ATAC bisogna cominciare dai 20 dirigenti che ci sono. 20 dirigenti andrebbero licenziati, e quanti dipendenti? Ma sai, i dipendenti più che licenziarli vanno riutilizzati. Riallocati sulla strada. Toglierne un po' dagli uffici e mandarli sulla però strada. Però 20 dirigenti vanno cacciati tutti, secondo te? Subito. Per iniziare. Ciao, presto, ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Flavio Cremona, vai. Augusto da Varese, Augusto. Ciao Cruciani. Dimmi. Senti, ti volevo dire appunto che il mondo va un po' al contrario, perché chi difende la casa viene incriminato, invece chi invece cerca appunto di... la polizia non va più dietro ai ladri, il mondo va tutto al contrario. Vabbè, adesso la polizia non va dietro ai ladri, la polizia va dietro ai ladri. Sono in giro a farci le multe con i multavelox per prendere soldi al comune, non inseguire i ladri, ti dico la verità. A me sono venuti in casa 2 volte, che mi abbiano mai aiutato, no, però in compenso con la pistola laser mi ha beccato 4 volte per 10 km. Cioè tu dici c'è più attenzione a sanzionare la gente con le multe in giro per le città che a reprimere la piccola criminalità. Può darsi pure di sì, non lo so. Sono convinto di questo. Mi faccio i complimenti per la trasmissione. Poi hanno notato questo, che ogni volta che ti fanno i complimenti tagli via veloce. Vabbè, prendili, siete bravi, dai, ci fate compagnia. Vabbè, poi? E poi l'ultima cosa, quando avete parlato il mondo va alla rovescia del professore di 3 giorni fa in classe che veniva con il rossetto, volevo ricollegarmi al fatto che il mondo va proprio alla rovescia, perché io ero a Roma e mi ricorderò sempre 4 anni fa che ero in metropolitana e ho visto Lussuria e devo dirti che è stato uno spettacolo che non ho ma in che senso? Aspetta un secondo con la pubblicità, poi me lo racconti. A Crucianino, super intelligentone. La Zanzara. Parenzo, sei uno zero assoluto, smettila, tacci, non conti un cazzo in questo programma. Parenzo, puoi smettere di parlare? Non ci vado in casa degli altri! È questo che voi non capite! Porca puttana! Ma che cazzo, parla piano, non mi rompete le balle. Ma cosa vuoi che succeda? Cosa sta succedendo? Io finché avrò vita, fiato, parlerò, voglio una legge che garantisca la proprietà privata. Grazie davvero Francesco, mi senti? Sì, la sento Barbara. Allora, sono venuto qua perché qui è 4 giorni che tampinano. Non è che io ci tenevo molto ad apparire. Poi vedo che lei è molto allegra, beata lei, insomma. Io? Un'altra cosa, non so se è lei che ha mandato in onda. Sì, lei è molto allegra oggi, vedo che sono felice per lei. Io Francesco, allora, Francesco, scusi, le rispondo subito. Guardi, non parli sempre lei perché ha questo difetto. Io spero che lei sarà assolto, guardi, perché penso che lei non ha commesso un omicidio, ma sono sicuro, lei non ha capito una mazza. Non creda che tutti sono lì per linciarla. Io non sono per linciarla. Io vorrei solo ragionare su quella legge. La smetta di chiacchierare con un gallo nel pollaio. Io lo decideranno i magistrati. Io ho diritto ad avere nella mia casa un'arma per proteggere me e i miei familiari. Se lei la vuol comprare, bene. Se lei si vuole difendere poi col cucchiaino da caffè, è un problema suo. Io non so, io in casa voglio solamente un altro. Io le sto dicendo un'altra cosa. Devo dire che, ragazzi, il cucchiaino da caffè è eccezionale. Sì, ma non mi sembra che l'ottimo Sansonetti abbia usato argomenti contro di lui. Cioè, era talmente però eccitata tutta la situazione. Per cui qualunque cosa dicesse Sansonetti era quello, nello stereotipo, di sinistra buonista dalla parte dell'assassino. Cosa che non era. No, nessuno dice che è dalla parte dell'assassino. Ma questo è nessuno dice che è dalla parte dell'assassino. Certo, ma non ha detto qualcosa contro di lui. No, ha detto semplicemente, ha detto una cosa che però alle volte il buon senso veramente viene meno in questi casi, anzi in molti casi. E qual è? Quale sarebbe il buon senso? Ma la parola di buon senso non è quella di essere. Ma qual è la parola di buon senso? Non ho capito. Ma non bisogna essere. Vedi, voi il siete vero, degli ultras. No, il vero inganno siete è ultras, questo. Il vero questo inganno è l'inganno. No, ma, che avete ma l'inganno è il tuo di far credere che chi sostiene la possibilità di difendersi financo a uccidere una persona nel perimetro della propria abitazione sia un ultra. Se questo è il punto, l'inganno è il vostro, è il tuo l'inganno. L'inganno è proprio questo. Io dico perché che la legge fate passare per estremisti, fate passare per estremisti tutti voi la gente normale. Ultras della pistola, ma che ultra della pistola? Io non so nemmeno come è fatto una pistola. Gente ma normale, gente normale. Anche terrore della pistola, ho terrore. Non è gente normale. Dai, ti voglio dire un'altra cosa, cioè oggi non è gente già normale. Siciliano non è normale, dai. No, su. Siciliano, poverino, sì, sicuramente. Ha avuto anche uno shock, va in televisione, benissimo, a posto, va bene così. Non io nemmeno non il coraggio discuto di attaccare sua... Siciliano, capito? Non hai nemmeno il coraggio di attaccarlo tu, ma per quello che dici. Ma perché dovrei attaccarlo? Un altro te lo saresti mangiato. Ma perché dovrei attaccarlo? È una perché persona te che ha subito... Fottere, te ne dovresti fottere no, di questo, ma io capisco invece l'umanità delle persone. Stai cioè, a dire, ma capisco... che ne sa, ma che non lo conosci l'umanità, no, non lo capisco conosci. Stai alle parole, le parole dovresti assaltarlo per le parole che dice. No, io dovrei fare quello che credo giusto. E quel che credo giusto è che siccome è una persona che uno ha subito una più furti in casa, sì, ha subito lo shock di ricevere una visita di quel signore, visita non gradita, e in più penso che ha fatto una cosa che per tutta la vita lo segnerà, perché aver ucciso una persona, amico mio, questo è la palissiana, non c'era bisogno allora di se è la palissiana cosa dobbiamo dire? No, vai niente, a far culo siciliano, non dire nulla. Ma chi è l'imbecille che può dire Augusto, una cosa simile? Chi è l'idiota? L'idiota non esiste nulla. Che può dire, e allora cosa vuoi che dica? Augusto, a siciliano perché lo dovrei sbranare? Secondo me con la tua logica dovresti attaccarlo. Ma io ragiono sulle cose, non è che sbraito a prescindere. Ma chi ti ha chiesto di sbraitare? E Augusto, allora di cosa parliamo? Va bene, dai, non hai capito. Augusto, vai. Allora, a quel paese siciliano, se vi fa piacere, ma non lo non penso. Non ci fa piacere nulla. Non ci fa piacere su, niente. Ragazzi, Augusto, allora, vai. Siamo intelligenti. Per smorzare un po' i toni, perché poi poverina ha veramente ammazzato una persona, sono cose comunque che. Appunto, esatto. Ma ragazzi, ma che voi mi dite che uno che ha ammazzato una persona, che una persona passa un momento difficile, ma io che ce faccio con una frase del genere? Il brodo. Il brodo. Ma ci allora faccio allora sta passando allora un momento difficile. Tifo, ma è chiaro, ma chi se ne frega? È scontato di una cosa del genere. Scontato, scontato. Sparate il tifo, sparate tutti. Augusto, dai, su. Fate allora, il tifo. Va bene. Ti volevo dire che comunque cambiando un po' il tono, mi ricorderò sempre quando ero in metropolitana, ho sentito un profumo che sembrava quello del detersivo che usano per pulire il condominio di casa mia quando vengono a fare le pulizie sulle scale. Mi sono girato in fondo mi sono avvicinato e ho riconosciuto che era Lussuria in persona. Eravamo in metropolitana e già in televisione non lo potevo vedere perché ha i capelli, è stempiato, è un uomo che vuole passare per donna, veramente abominevole a mio giudizio, perché è una cosa pietosa. Ma chi era? Lussuria, lui, l'onorevole. E qual è il problema di Lussuria adesso? Perché ti dà fastidio Lussuria? Spiega. No, ma dico, mi sembra così, come posso dire, così strano che un uomo voglia apparire da donna. Mi riferivo anche ai professori in classe. Una donna è una cosa inimitabile, cioè il DNA è tutta diversa, i fianchi. Ma se uno si vuole truccare, si vuole travestire, se uno vuole trasformarsi in un'altra persona, qual è il tuo problema? Non è che ti fa schifo, no, una cosa del genere? I trans ti fanno schifo? Moltissimo. Ma sono sicuro che tu con qualche trans sei andato, Augusto, matematico. Sicuro al 100%. Ma che secondo me tu che sei un po' pervertito, come spesso mandi i campioni in radio, forse qualche pensiero ce l'hai fatto, ma ti garantisco che pensiero sicuro. Tu invece ci sei proprio andato, secondo me. Adesso ovviamente i trans ti fanno schifo, quando uno in realtà c'ha la fissazione dei trans e dice che i trans fanno schifo. Ma secondo me dovresti provare il brivido trans, comunque è un'esperienza. Sì. No. Augusto. Quando ero piccolo, a 6 anni, mia mamma aveva comprato l'enciclopedia dell'arte. Mi ricordo sempre che io guardavo le donne nude di Raffaello perché mi arrapavano. E questo, dice, mia mamma diceva: oh, ma mio figlio, che cultura, già a 6 anni apprezza l'arte. Ma io volevo guardare le tette, capisci, le cose, le donne nude. E l'unica cosa che avevo erano i libri dell'arte. Per cui ti dico, una donna, per com'è, secondo me, non dovrebbe poter essere imitata da un uomo, perché non c'entra proprio niente. È del DNA diverso. Ed è veramente, io dico, poi uno in casa sua fa quello che vuole, ma se uno va in televisione, in politica, al Parlamento, a scuola, cioè non ci dovrebbero essere trans in Parlamento, secondo te? Presentarsi in quel modo non è decoroso, secondo me, per una certa immagine. Ma non è decoroso fottere i soldi allo Stato, non essere transessuale, dai, su. Ci sono tanti Gabriele da Pisa, non dire cazzate, Augusto, dai. Gabriele Pisa. Ci sono. Dimmi. Ah, senti Cruciani, io volevo dirti una cosa, che dovresti smettere di fare l'uomo del popolo, perché Io non faccio l'uomo del popolo. L'uomo del popolo, ma ha ragione, questo l'uomo del popolo, esatto. L'esperienza della vita non ne ha. Non ho capito, scusa. Non ho capito. Il difensore del popolo, giusto? Che io un pochino la strada l'ho frequentata più di te, un pochino di più, e si capisce da come parli. E il mondo che descrivi, in cui arriva il ladro, ti viene in casa, ma io non sto descrivendo nessun mondo. Ti denuncia per sequestro se lo chiudi nel bagno. Non ho capito, scusami. Non ho capito. Non è così, cioè, l'Italia non funziona così. Se vuoi ti racconto un po' di aneddoti che mi sono successi a me e degli amici. Quando entra un ladro in casa, lo prende, lo bastoni, e arriva la polizia lo prende, lo porta dentro, lo convincono a forza di botte a non denunciarti per cose, perché sanno, può succedere, che hanno molto di più da perdere. Può succedere anche questo, può succedere, come è successo il contrario di persone invece che sono state denunciate. Ma molto raramente, guardi, le mie esperienze sono state tante, se voglio le racconto, e sono state queste. Quando un rom ti entra in casa, lo prendi, lo prendi a bastonate, se non sei stupido come quella persona che ha sparato, perché quello stai esaltando un pazzo esaltato che va in giro con la pistola. Ma non va in giro, era a casa con la pistola. Era a casa, state dicendo delle boiate. Era a casa con la pistola, non ha mai sparato in vita sua a qualcuno. A uno che stava sotto, questo lo vedremo, come le dinamiche, le dinamiche le vedremo. E non stava, il patriota Gabriele, non stava scappando. Questo lo dici tu che stava scappando. Lo dici tu, ma che c'entra il patriota? Eccetera, eccetera. Cosa c'entra il patriota? Non c'entra nulla. Gli inquirenti, i PM, i giudici, come tutta una massa di deficienti che fanno delle certo. Io non ho detto nulla sui giudici, ho detto che secondo me dovrebbero cambiare le leggi per non dare spazio, per non dare spazio. Ha una persona che stava scappando, lo dicono. Ma chi lo dice? Ma chi lo dice? Ma chi lo dice? Ma lo dici tu? Ma lo dici tu che stava scappando? Ma quando mai? Vedremo. Parlano a vanvera come qua fai tesa. Vedremo. Parli a vanvera, perché sei uno che sei cresciuto non nella strada, ma nei salotti, capito? Ma io non sono cresciuto nella strada, ma non ci sarebbe nulla di male a dire che è cresciuto in salotto. Non è una roba così terribile. Ma dico, io non ho capito di cosa, io non ho capito bene, io non ho capito bene di cosa stai parlando. Io non ho capito ancora. Innanzitutto, quale informazione invece, non vediamo che informazione hai tu invece su questo caso interessante, perché l'unica informazione che hai dato in questa telefonata sei tu, che hai detto che quello è scappato, il ladro stava scappando. Da dove l'hai presa? Quello che dicono i telegiornali. Uno che come sia uno, ma dai, su, ma smettila, radio. Smettila. Basta, di dire cazzate. Ma sei te che dici le cazzate. Sì, è arrivato il fenomeno. Tu puoi fare quello che ti pare, ma tanto sei uno. Ma io non ho capito di cosa stai parlando. Non ho capito di cosa parli. Stai parlando del fatto che tu stai esaltando uno che ha ammazzato una persona, che lo sta facendo diventare un eroe. No, io non dico nulla. Dico che lo vorrei presidente della ufficiale pubblica. Ammazzare la gente perché entra a casa. No, allora, non ha detto mai che bisogna ammazzare la gente. Ascoltami. No, io non ti ascolto, sei tu che devi ascoltare me. Rispetta le leggi italiane, rispetta le leggi italiane. E vabbè, vedremo, se non, vedremo se non la rispettate. Ti dicono che non si può sparare al ladro se lui non ti sta minacciando con una pistola. Chiaro, a parte che non è vero, anche quello che dici tu non è vero. No, è verissimo. Non è vero, non è vero, non è vero. Deve essere proporzionale alla difesa. Allora, non è vero. Ma le leggi possono anche essere cambiate, le leggi possono anche essere cambiate. Oh, allora diciamola com'è. Ma è dall'inizio che lo dico. Ma è dall'inizio che lo dico. Perché sei uno che ha una precisa ideologia politica. Io, precisa ideologia politica. Ma certo, certo, sei un liberale fascista, fascistoide. Liberale fascista è interessante, liberale fascista. Sì, dai, poi sarei io l'ignorante. Far carriera con radicali, ah, vai, vai, poi Gabriele. Tromba ha capito che non ci mangiava poco, è andato a fare l'anarco insurrezionalista e poi smetterà di mettere la musica punk che con te non c'entra niente. Te sei un servo, sei uno dalla parte dei forti, sei sempre con i forti contro i deboli, hai capito? Il punk con te non c'entra niente, cambia colonna sonora, metti altra musica, metti la musica discoteca commerciale che è quella che devi ascoltare te. Vai, vai, vai, continua. Vai, continua. Continua. Vai. Allora, se ti difendi tanto l'Italia, che ci sono gli immigrati che vengono a rubarti in casa, devi rispettare anche le leggi italiane. Le leggi italiane parlano chiaro. Se un immigrato si entra in casa e un ladro si entra in casa e non ti minaccia con la pistola, non gli puoi sparare, perché la difesa deve essere proporzionata alla minaccia. Questa è la legge italiana. Se non ti piace, è così. Allora, togli la maschera e di che stai facendo propaganda politica, perché sei pagato per questo. Non fare l'uomo del popolo, perché te non sei un uomo del popolo, sei un uomo dei salotti. Hai capito? Voglio più Zanzara e meno pubblicità. Stufe e caldaie Termo Rossi, una promessa di calore per un amore di casa. Vi presento la Zanzara. Di Radio Padania. Servi di Roma fuori, senza dubbi né ripensamenti. Padania bella e libera, guarda avanti. Servi di Roma fuori. Non mi è piaciuto quel gesto del sindaco, come si chiama, Buonanno. Buonanno, sì, con due N, Buonanno, sì. Buonanno, sì, Buonanno. A questo non mi piace. Chi ha tirato fuori la pistola? Non permettere al tiranno di accettare. Il bello della Padania è quello, che ce la mettono di tante merda in giro, perché sporchizze le redume ne abbiamo lavato. Sali Padania. Quelli che sono praticamente dei corpi estranei che ci invadono. Sono certo che se ci fosse un elemento alla Mussolini, questo schifo non ci sarebbe stato in Italia. Ma dove sta scritto che dobbiamo aiutare tutti questi barbari, questi disperati che ci stanno invadendo? Ma che ci arrangino? Servi di Roma fuori, senza dubbi né ripensamenti. Padania bella e libera. Però attenzione, siamo solo noi ormai che diciamo tutto questo. C'è soltanto Radio Padania, l'unica radio ufficialmente no gender. Ma tra poco saremo spazzati via da queste lobby gay e lesbiche che vogliono cancellare ogni differenza tra uomo e donna, tra bambino e bambina, che vogliono cancellare quel poco che rimane dell'ideale di famiglia. Nella tempesta come una madre e un figlio. Ma Barin, dove l'ha vista sta lobby gay che vuole travolgere ogni idea di uomo, donna e famiglia? Ma che nella sua mente malata. Ma è una roba incredibile, dai. Mamma mia, Sammy Varin saluta quelli che sono seduti sul gabinetto. Sì, perché alle ultime elezioni voi avete votato PD e vi sta venendo una cagherella totale, totally cagherella. Ci sono fogne già otturate in gran parte delle grandi città, signori, perché c'è un vento di cambiamento immenso. senza dubbi neri pensamenti. In Polonia trionfa la destra nazionalista. La Russia è l'unica in questo momento che sta cercando di sconfiggere i terroristi dell'ISIS. E noi in mezzo a riempirci di ciabattanti inutili. Poi c'è un ascoltatore che sta piglia. Aspetta, che... il canone Rai, senti, senti. Ciabattanti. I suoi parenti cosa facevano? Padania bella e libera. Finché abbiamo una congrega di persone così, come non so come potremmo fare. Qui è uno scandalo dietro l'altro, e poi ti impongono di metterti quel cazzo di canone della Rai nella cosa della corrente elettrica. Cioè, non lo so, io non lo so. Vabbè. Guardava. Flavio Cremona, vai. Sì, ciao. Dimmi. Allora, ma intanto io da queste trasmissioni ho capito che sono fortunato perché non ho niente da dover difendere a costo della vita mia o di qualcun altro. Comunque, a me preoccupa... La sua vita avrà da difendere, semmai. Sì, perché visto che la gente spara per difendere le proprie... la proprietà, le case, così. Allora... Io fortunatamente non ho niente da difendere... Fino a questo punto. Vabbè, ma è quello che c'entra, scusa, non ho capito. No, niente, niente. Cioè, non hai niente da difendere, che vuol dire? Non hai niente, non niente ha da beni, non ho niente da difendere familiari. Così tanto da armarmi e sparare a qualcuno. Vabbè, allora? Fino a questo punto. Abbiamo niente. Capito comunque che non hai niente dire. Da difendere, poi? Ok, poi, a questo punto, quando tutti saranno armati per difendersi, eccetera, eccetera, e quando anche i ladri cominceranno ad armarsi, la mossa successiva quale sarà? Ma non lo so se i ladri cominciano ad armarsi, nessuno vuole, nessuno vuole pistole per tutti in maniera indiscriminata, nessuno ha detto questo, nessuno sostiene le pistole per tutti in modo indiscriminato. Non in maniera indiscriminata, tutte le brave persone che vogliono difendersi da questi criminali. E quando saranno armati anche loro? Vabbè, ci saranno delle sparatorie. In tanti paesi ci sono le sparatorie, non succede niente. In Italia anche gli Stati Uniti vogliono rivederlo. Quindi è una cosa scontata, ovvia, normale. Ma io penso che ci saranno delle sparatorie. Ma non so, può darsi pure che ci saranno delle sparatorie. Ma se uno lo vuole accettare, lo accetta. Altrimenti, no, non mica io propongo l'arma obbligatoria per tutti. Cioè, a me gli obblighi mi fanno schifo. Per cui, figuriamoci. Non è obbligatoria, però se. Vale la pena armarsi, allora si armano tutti. Io non lo so se si armano, i ladri si armano sicuramente. Poi che i ladri possano armarsi di più, come dice qualcuno, se anche i cittadini si armano, io credo che non sia questo il punto. Si armano comunque i ladri, si armano in ogni caso, che si armino, come dire, di muscoli, che si armino di chiavi inglesi, che si armino di bastoni, che si armino di pistole, magari a questo dipende. Punto di pistole. Non lo so, non credo che aumenti l'armamento pugno, dei ladri di fronte ai cittadini che hanno le pistole. Io penso che un pugno e una pistolettata siano ancora due cose differenti. Ma non c'è dubbio. Franco da Torino, dai, Franco. Pronto? Dimmi. Pronto? Dimmi, Franco, vai. Allora, no, volevo dirvi che di non scherzare sulla carne rossa, che è dannosa. Io sono medico, sì. Questi dati li conosco già da anni. Medico di che tipo, Franco? Medico ospedaliero, un gastroenterologo. Sì. Questi dati si conoscono da anni. Sì. Se, appunto, ultimamente, sì. Se ultimamente l'Organizzazione Mondiale della Sanità si è spinta a dare una raccomandazione del genere, è perché il dato è veramente forte e non si può neanche controbattere dicendo tanto c'è l'inquinamento, tanto c'è... Perché tutti questi fattori sono fattori di rischio aggiuntivi. Sì, sì, allora dunque? Tu stai dicendo che bisogna prendere molto seriamente quello che dice l'Organizzazione Mondiale della Sanità. Molto seriamente, non tanto scherzarci. Cioè, dobbiamo alla fine un mondo fatto di vegetariani. Cioè, se tutti se tutti fossimo vegetariani sarebbe un mondo migliore, giusto? No, assolutamente no. Ma comunque qual è la conclusione di questo ragionamento? Intanto è solo la carne rossa, dice. Attento, non è che bisogna questo dire. Lo sappiamo, Franco. Allora... quindi non vuol dire tutti vegetariani. Sì, sì, o no. Il pesce. Vabbè, adesso è un altro discorso, lo so. Per estremizzare, però loro dicono la carne rossa. Ma non è un convegno, però. Franco sta dicendo un'altra cosa. Sì, però si può dire. È il tipo. Pronto? Sì, dimmi. Allora, è il tipo di alimentazione che noi stiamo adottando, che è sempre più simile ai modelli nord europei, e in nord Europa vi posso assicurare che certi tumori dell'apparato gastroenterico, il colon, il pancreas, che è terribile, stanno aumentando in modo esponenziale, e anche da noi, proprio per, tra l'altro, per le abitudini alimentari scorrette che stiamo assumendo sempre di più. Allora, direi che forse dal punto di vista vostro, che siete una trasmissione molto seguita, non scherzate troppo su questa cosa, perché è giusto adottare un atteggiamento equilibrato da un punto di vista alimentare, come anche dal resto delle abitudini di vita, senza scherzarci troppo sopra, perché il dato, vi posso assicurare, essendo sul campo e occupandomi di queste cose, è decisamente in aumento. E il consumo adesso viene posta l'attenzione. Allora, tutte le cose fatte male, tutte le cose lavorate male, ovviamente producono danni. Su questo non è il lavorato male, è la sostanza in sé che poi dia fastidio più o meno. Ma lei è diventato vegetariano? No, no, io non sono vegetariano per niente, però faccio attenzione a questo e non ho un consumo smodato di carne. I consumi smodati non vanno bene quasi mai per qualsiasi tipo di sostanza. Ma neanche mangiare carne tutti i giorni va bene. E nemmeno mangiare magari verdure tutti i giorni. No, questa è già un'altra cosa. Io non sono un vegetariano, ma ti posso assicurare che mangiare verdure tutti i giorni... No, ma mangiare in maniera smodata verdure, per esempio, no? No, no, vabbè, ma anche se voi fate riferimento, per esempio, alle popolazioni che per mancanza, se volete, di materia prima, ma adottano sistemi alimentari diversi, hanno una qualità di vita e una quantità di vita che è superiore alla nostra. Noi la stiamo poco poco erodendo un poco alla volta anche per queste cose qua. Se poi ci aggiungi il fumo, l'alcol in eccesso e tutto il resto... tutto questo fa massa per alterare e ridurre non solo la quantità ma anche la qualità della vita. Grazie Franco. Giorgio Milano, vai. Giorgio? Ciao. Dimmi, ciao, Giorgio. Mi senti? Sì, sì. Mi senti? Ti sento, Giorgio, dimmi. Ah, ok, perfetto. No, niente, posso solo dare ragione al gastroenterologo. Io sono un biologo e volevo dirvi che, semplicemente darvi una notizia. Dammi questa notizia, dimmi. La notizia l'avete data voi, che oggi l'OMS... No, oggi le giorni l'altra scorsi, notizia è che, guarda caso, al Parlamento Europeo oggi pomeriggio discutevano sull'insetto edibile, su cosa discutevano? Gli insetti. Sugli insetti edibili, cioè quelli mangiabili? Esatto, sì. Perché tu mangeresti un insetto? Perché no, sì, certo. Che tipo di insetto? Non ho capito. Beh, cavallette, le culone. Le cavallette all'Expo si mangiano, infatti. No, tu mangeresti... erano vietate. Io ho mangiato le meduse fritte. Le meduse fritte. Vabbè. Beh, qualsiasi cosa fritta è buona. Sì, le meduse fritte, vabbè, d'accordo. Certo. Però pensiamoci, perché la farina di insetto è una farina proteica molto buona. La farina di insetto. Farina. Ma al di là delle cavallette, che altri insetti si possono mangiare? I tenebroni sono quelle larve, che sempre larve della farina, cioè le larve, gli insetti. Scusate, però gli scarafaggi, gli insetti, le cose, no? Ve li mangiate voi? Io mi mangio la fiorentina, scusami un attimo, mi mangio una bella fiorentina. Non c'è dubbio, però per produrre una fiorentina spendi adesso ma non è vero, ma non è vera questa cosa. Ma cosa non è vera? Ma quanto ti costa produrre una fiorentina? In termini di acqua, quanto cibo, ti costa? A me mi fanno impazzire quelli che dicono questo. Quanto ti costa in termini di acqua? Quanto, ma perché allora, quanto secondo te, alla comunità distruggi il pianeta? La maggior parte delle cose che vengono discusse al Parlamento Europeo sono totalmente inutili. Bisogna partire sempre da questo presupposto. La maggior parte delle discussioni che si fanno sono totalmente inutili. Dunque, non mi stupisce che parlino di insetti che si possano mangiare. Anzi, sono abbastanza curioso di questa cosa che mi stai dicendo. Vabbè, ma se mangi la mucca tritata, perché non puoi mangiare l'insetto tritato? Ma no, per carità, che diventi oggetto di interesse da parte del Parlamento Europeo, questo non mi stupisce. Naturalmente. Beh, comunque Olanda, Francia, Belgio hanno già adottato questo, almeno per il pet food. Bene, Alberto da Roma, vai. Dimmi. Potremmo andare a quel paese, Parenzo. Sì, c'è gente che ha fatto di peggio, per cui non mi sembra. Vabbè, no, io non voglio, non mi piace usare le parolacce. Comunque, ascolta, volevo dire a Parenzo, volevo raccontare brevemente la mia esperienza. Sentiamo. Qualche anno fa io vivo a Roma, vivo in una villa al centro di Roma, all'Eur, tanto per capire. Sì. E qualche anno fa sono stato vittima di un furto con danneggiamento dei locali, danneggiamento alla mia persona e ai miei familiari. Io non ho sparato perché impedito, perché mi hanno preso a tradimento, ma ti giuro, se per caso dovessero rientrare, visto che ho messo degli avvisatori non acustici ma solo visivi, non gli sparo quando sono entrati nel mio recinto, gli sparo prima. Bravo, così bisogna fare. Cioè, se uno se la sente, bisogna fare così. Cioè, no, non c'è dubbio. Me la sento. Io non me la sentirei. Se uno se la sente. Io me la sento, ma io sono anni che vado al poligono un giorno sì e l'altro pure. Quell'idiota di Parenzo. No, ma fa paura. Diritto, quell'idiota di Parenzo. Grazie, non sì, riesce a capire che cosa vuol dire subire e veder subire la propria donna e i propri figli. Ma certo, ma ci mancherebbe altro. Ma posso difendere una cosa simile, no? Parenzo, fammi parlare. No, ma guardi, perché sta dicendo delle bestialità che lei non mi deve far parlare. Perché Parenzo ha detto delle castronate pazzesche. Io lei, cosa vuol dire che non posso capire? In diretta ma tutti i giorni. Che vuol dire che io non posso capire uno che ha subito un furto o un'aggressione? Ma che cazzo? Cosa dice? Ma che dice? Ma va a quel paese, ma come si permette? Ma come simili si permette? Ecco, no, cioè lei che è altro che simile, molto lei più basso. È un ma come si permette? Ma come si permette lei? No, ma come ma si permette lei? Sa perché? Perché la sua di dire che io non capisco quelli che subiscono un'aggressione. Quando mai ho detto che non capisco quelli che subiscono un'aggressione? Lei non ha mai capito ma niente di che perché parla? Sta difendendo come tutti quelli di sinistra. Ma ecco la stupidaggine. Legga un attimino, ma ecco la stupidaggine ecco la stupidaggine, aspettavo la stupidaggine. Un attimino Marx di sinistra. Fermo che torniamo che abbiamo la pubblicità. Sinistra. Attento al DDT, sai. State ascoltando un programma offerto da Centro Software, i migliori ERP per gestire le imprese italiane. La Zanzara. Ormai è tutto degradato. Cinque stelle scatenati contro la Littizzetto, incredibile, eh? Però la Littizzetto cosa ha detto? Credo da Fazio, naturalmente, no? Sì, ha detto che loro fanno politica con lo stomaco. Delle stelle cadenti. Sì. Ho letto che la maggior parte delle stelle cadenti pare, l'ho letto su Libero, che sia in verità cacca. Nello specifico degli astronauti. Ma piantala! Che sono secoli che chiediamo alle stelle di esaudire i nostri desideri. Ecco perché non si avverano mai! Perché chiediamo a delle cagate! Quindi. Da ultimo, quando c'è un movimento di pancia, come vogliamo chiamarlo? Come vogliamo chiamarlo? Movimento 5 Stelle. Movimento di pancia che spara cagate, diciamo. Questa è la sostanza dell'intervento della signora Littizzetto. Bisogna sempre ricordare a quelli dei 5 Stelle, Littizzetto fa satira, ecco, cioè, fa la comica, non è che sta lì a fare. Poi appunto, è evidente come la pensa la Littizzetto su tante cose, però chi se ne frega? Cioè, fa la comica. Quelli però sono incazzati come bisce. Per esempio, chi è che è intervenuto? Un deputato, no? Che è un deputato? Un deputato dei 5 Stelle che interviene sulla Littizzetto, ti rendi conto, no? Altri dicono che Grillo sono è stato. Sono diventati come gli altri. No, dai, Grillo è stato cacciato dalla RAI per una battuta dei socialisti. Che cosa dovremmo fare con la Littizzetto? Molti ce lo chiedono su web. Infatti, assolutamente nulla. Io credo che chiamare merda 10 milioni di italiani che votano Movimento 5 Stelle sia qualcosa non soltanto di profondamente sbagliato, ma anche di assolutamente fuorviante e oserei dire criminale. Se anche tu non sei contento di pagare il canone per sentirti dire che sei una merda, clicca sul link che vedi in sovraimpressione e lascia la tua firma. Grazie. A Tosatto, questo si chiama Tosatto, no? Passa il tuo tempo a fare altre cose, non a rompere i coglioni sulla Littizzetto, dai, su, amico mio, dai, quella è una battuta di una che fa un programma comico, dai, fa battute su chiunque, sul PD, su Berlusconi, su 5 Stelle, dai. Di dico ogni tanto delle cose talmente scontate che non è male, non è alle volte dire no, ma è una cosa così scontata dire che la Littizzetto fa la comica. Ma poi come si sbagliò in passato ovviamente la Rai a cacciare Grillo per la battuta sui socialisti fatta a Fantastico, se non ricordo male, sì, con perché si dovrebbe imitare ancora fare di nuovo un altro sbaglio, e cioè per una battuta cacciare un comico dal servizio pubblico, non si capisce, visto che loro sono il nuovo dovrebbero saperlo questo. Ma sì, ma poi che vuol dire cacciare, cioè cacciare quella, no, ma dico una battuta, giustamente loro ricordano la cacciata di Grillo come un'ignominia, sì. E hanno ragione, e adesso bisognerebbe fare la stessa cosa per battuta, dai. Ma scusa, c'è un avvocato nel processo di Bari, quello sull'escort, no? O presunte tali, l'avvocato di Tarantini, ma non di Tarantini, quello del fratello di Tarantini, che si chiama Claudio, il quale ha detto una cosa che secondo me è anche corretta. Ovviamente a Parenzo farà ribrezzo questa frase. Però le donne implicate in quel processo sono in realtà, secondo lui, donne che hanno il diritto della propria libertà personale e all'utilizzo del proprio corpo. Cioè, le ragazze definite escort dalla procura cercavano in quelle serate, le serate passate a casa di Berlusconi, l'opportunità di lavoro, rivendicando il diritto di utilizzare la propria immagine. In realtà il diritto di farsi scopare in cambio avere denaro, soldi, carriera, posti di lavoro o speranza di averli, perché poi mica è detto che le cose si realizzano. Valerio da Napoli, vai! Pronto? Dimmi Valerio, mi segnalano intanto che in Molise, esattamente a Campobasso, vicino Campobasso, anzi un paese che si chiama Castelverrino, provincia di Isernia, c'è un signore, un artigiano, il quale si è trovato in una situazione abbastanza simile a quella di Vaprio Dadda ed ha sparato in aria con la sua pistola e ha messo in fuga i ladri. Ma io non ho detto che questa cosa qua non si può fare, anzi, se uno vuole farla, la faccia! La faccia assolutamente. Cioè, qual è il problema? Cioè, non ho detto che l'unica alternativa è quella di sparare in testa o sparare al cuore dei ladri. Cioè, non ho affatto detto questo. Ho detto se uno se la sente di sparare, spari in aria, che problema c'è? Assolutamente. Cioè, magari poi ti arriva una pistolettata in bocca, va bene. Cioè, uno assume. Si può difendere come vuole, però ci si può difendere anche sparando alla figura, anche sparando a uno che vuole entrare dentro casa tua. Valerio, vai. Pronto, senti, comunque non abbiamo più bisogno di armi e di pistole perché ci sta Salvini è come Daltanisk, ascoltate qua, Salvini, uforobo, Salvini, e Salvini che compare giù, bum bum, e lo zingaro non esiste più, bum bum, e Salvini che ci aiuterà, superus pe pistole boomera, odia gli zingari e anche gli arabi, dagli invasori ci difenderà, lui si sacrifica, lo sa che è l'ultima speranza per l'Italia, extracomunità. Via da questa terra mia, togli le zampo, ce le lascerà. Ti pacca in quattro, lui ci fa una croce su, e tu non ci sei più. La riva ci sta. Salvini che compare giù, boom boom, e lo zingaro non esiste più. Boom boom, e Salvini che aiuterà. Ma che ti sei fumato, Valerio? Salvini è come Daltanius. Ma che ti sei fumato? Cosa ti sei fumato? Ma no, perché invece degli extraterrestri abbiamo gli extracomunitari, è la stessa cosa dei cartoni anni 70. Lo so, ma ti sei fumato qualcosa. Ma lui l'ha anche scritta, no, proprio, capito? Ce l'hai anche scritta questa roba. Denota una complessità. Certo, ce l'ho anche scritta, ve l'ho anche mandata. Com'è che fa? Ma l'hai mandata come registrata? Come l'hai mandata? No, ve l'ho mandata come testo perché basta che cambiate extraterrestre al posto di extracomunitario, al posto di Daltanius Salvini. È la stessa cosa. È la stessa cosa. Vabbè, che pistole, va bene, va bene. Pistole, ciao. Giovanni da Ferrara, vai Giovanni. Aspetta che c'è un'ambulanza che passa. Sì. Mettere l'ambulanza che porta via con lui prima che cantava, probabilmente. Mamma mia, sarà fumato veramente qualsiasi cosa. La coincidenza è questa, cioè questo canto arriva all'ambulanza, sicuramente per la stessa ragione. No, volevo dire una cosa a proposito di Patti. Allora, una cosa che non si capisce è questa. Valentino Rossi sì. sapeva benissimo che nel momento in cui dava il calcio a quell'altro e quell'altro cadeva, poteva morire. Sì. Ora, sì, se io spingo uno in mezzo alla strada sapendo che può andare sotto le altre macchine, è tentato omicidio. Ora, io voglio che un magistrato indaghi Valentino Rossi per tentato omicidio. Beh, questo è grosso, perché però, poteva, eh? No, no, no, perché poteva morire. Poteva morire. Cioè, secondo te Valentino va messo sotto inchiesta per tentato omicidio? Per tentato omicidio, va sospeso da tutte le competizioni sportive, perché lo sport è una cosa seria, una cosa fondamentale per l'esistenza umana, perché è una dimostrazione di come, grazie allo sport, vabbè, lo sappiamo, ma insomma, no. Vabbè, d'accordo, lo sport è importante, questo adesso, Giovanni, quindi, non c'è bisogno. È importante anche per questo. E dunque? Bisogna impedirgli di correre d'ora in avanti, perché sì, è pericoloso, perché sì, uno fa così è pericoloso, può succedere ancora che lo perché faccia. Perché non è lucido, dici, no? Ha dei problemi mentali. Ma scherzi! E poi va accusato di tentato omicidio. E poi va accusato, un magistrato deve assolutamente procedere d'ufficio per il reato di tentato omicidio. Va bene. Perché poteva morire, moriva. Però... Vabbè, Giovanni, mi pare un po' eccessivo, però devo dire. Non è eccessivo, se cadeva poteva morire. Ma questo d'accordo, e dunque? Poteva morire, quindi. Tentato omicidio. Ma i magistrati in Italia aprono inchieste per qualsiasi cosa, non ti preoccupare. Non è che uno dice, ma sai, non lo so, non potevo sapere che cadendo poteva morire. Lui lo sa benissimo che in pista, se uno cade, rischia di morire perché è travolto dalle altre moto, perché si fa male. Allora, facciamo omicidio volontario addirittura. Addirittura omicidio volontario. Potrebbe essere omicidio volontario. Se fosse morto, sì. Certo, omicidio volontario se fosse morto. Non è morto, quindi è tentato omicidio. Ma non c'è dubbio su questo. Va bene, grazie. Quindi io spero che un magistrato intervenga. Gianni da Rimini, vai, Gianni. Salve, buonasera. Dimmi. No, ma gli imbecilli oggi avete dato proprio la stura a tutti quanti. Che è successo? Che è successo? Come che è successo? Proprio l'ultimo che parla è il magistrato. Vabbè, questo è un ascoltatore, è intervenuto, ha detto la sua, dai. Su. Ma dice la sua, ma dice delle castate veramente che non stanno in cielo né in terra, scusa. Sì, però in faccia, glielo dico. Però Gianni, ti ricordo che Valentino Rossi, ovviamente io non mi auguro che si apra un'inchiesta su Valentino Rossi, ma non è nemmeno in discussione in queste ore. Lo stesso Valentino Rossi, abbiamo fatto risentire una frase nei confronti di Biaggi del 2001, certo, eccetera. Sentita, amico mio, però quello sono cose diverse, a parte il fatto che il calcio non gliela dà. Perché se voi prendete e infatti si parla, non si parla di calcio, si parla di altre cose. Però adesso stiamo qui a spaccare il capello in due. Siamo qui a spaccare il capello. La spintarella c'è stata o no? C'è stata o no la spintarella con la gamba? Cioè, con la gamba, e dai, su, amico mio, dai. Va bene, ma lì si apre tutta la discussione. La testa è andata lì. Non è che si può smaterializzare. Io non sono né colpevolista né sto dicendo semplicemente che se ci fosse stato un 50 anni di motociclista. In 50 anni di motociclismo, una cosa come ha fatto Mark non si è mai vista. Mai. Che cosa? Il fatto che abbia fatto una gara solamente per rompere i coglioni a una persona? Esatto. Ma questo ma d'accordo, questo merita, senso, però. Gianni, però questo esiste. Largo, ha fatto passare l'orecchio. Gianni, benissimo. D'accordo, benissimo. Io sono d'accordo anche con te. Il comportamento di Marquez è stato questo, ma quello uno può sanzionare il comportamento sportivo, perché il comportamento di Marquez è un comportamento ignobile dal punto di vista sportivo. Però finché non cadono per terra non succede nulla. Il problema è che qualcuno poi a un certo punto è caduto per terra. Purtroppo chi se l'è presa in quel per terra, chi se l'è presa in quel posto, gente, vabbè, ma noi stiamo parlando di ieri. Ieri è successa una cosa molto semplice, che Marquez si è messo in testa dal primo giro di rompere i coglioni a Valentino Rossi. Su questo non c'è nessun dubbio, hai ragione tu. Il problema è che finché si battaglia in pista anche in modo corretto o scorretto non succede niente, alla fine le cose nessuno viene sanzionato. Valentino Rossi è cascato nel trappolone. Questo è il punto. Questo che si è cascato nel trappolone, ma un'organizzazione seria che fa? Sanziona pure Marquez. No, però prima della gara, visto che c'erano state cose anche nelle prove, tutto, lo prende per le orecchie e gli dice: guarda, quei due si stanno giocando il mondiale. Tu fai la tua corsa, cerca di vincere se puoi, ma non rompere. Vabbè, ma che quello è un altro discorso. No. Chi avrebbe dovuto farlo? No. Il presidente della federazione? Chi? Nella finale mondiale Italia-Francia, il famoso colpo di testa di Materazzi, no? La gente che dice Rossi si è difeso. A me fa impazzire questa cosa. Rossi si è difeso, cioè Rossi come siciliano. Rossi come siciliano. Ha sbroccato e giustamente. fermato, magari doveva essere fermato anche durante la gara. Non lo so, ragazzi, a parti invertite, Marco, a parti invertite. Ha dato una squalifica a Marco, una squalifica di anni o mesi, di anni, perché ha rovinato un mondiale. Antonio, io provincia di Monza, ho capito Gianni. Antonio, vai. Pronto? Dimmi, Antonio, dimmi. Ciao Cruciani, senti, volevo dirti questo. 1981, io ero a Calvitano, una villa fuori Milano, sì. Ero in casa con mia moglie e mia figlia piccola, perché quella più grande era dei nonni, per mia fortuna. Sono entrati dei malviventi alle 11 di sera nascondendosi in giardino. Alla una hanno legato mia moglie con la bambina in braccio, me mi hanno legato puntando pistola e coltelli, sono stati lì fino alle 5 della mattina. Questo è quello che volevo dire. Io per un anno non ho dormito, mia figlia per due anni ha pianto tutti i giorni. E dunque a questo punto è giusto che non lei abbia sparato, perché se avessi avuto la pistola avrei sparato. Perché non te la sei fatta la pistola dopo? Me la sono fatta dopo. Ah, te la sei fatta dopo? Ah, assolutamente sì. E adesso, assolutamente che fa? Adesso che fai? Spareresti? No, adesso non ce l'ho neanche più, che ho fatto scadere il porto d'armi, perché ormai non abito più in una villa, perché è impossibile. Te sei separato? Adesso te sei separato e vivi da solo e te ne sbatti i coglioni? No, adesso mi sono sposato tre volte, ho avuto quattro convivenze. Amico mio, tre volte. Tre volte, amico mio, ma come si fa a sposarsi tre volte? Non bisogna essere malati per sposarsi tre volte. Scusa, già una volta una è un po' una perversione, ma tre volte bisogna essere malati di mente. Cioè, bisogna ricoverarsi tre volte, dai. Non c'entra con i ladri. Se uno si sposa tre volte va bandito quasi dalla società, secondo me. Cioè, è una roba. Cioè, se poi non puoi dire di avere problemi se ti sposi tre volte. Se ti sposi tre volte sei malato di mente. Non è normale sposarsi tre volte, dai. A domani, dai. E Salvini che compare giù, boom boom. E lo zingaro non esiste più, boom boom. Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7 e mezza, alle 8. Lo dica a voce alta. Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere. Siamo ad alti livelli qua, Radio 24. La passione si sente.